Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Forse da queste note potrete capire che oggi parliamo di Giappone, le note sono di Hakatombo e facciamo spiegare al nostro ospite, prima di presentarvelo, che cos'è Hakatombo. Beh, è una bella canzone popolare e credo che Hakatombo voglia dire libellula rossa, quindi è una cosa che piace ai bambini, ma è una musica molto nostalgica che piace anche a noi occidentali. Ecco, la voce adesso è quella di Vittorio Volpi, milanese, una lunga esperienza in Giappone, è stato uno dei primi ad andare in Giappone come italiano, ad aprire, mi pare, la filiale italiana della Banca Commerciale Italiana. La defunta Banca Commerciale Italiana. Che era una grande banca, ma c'è ancora, pur se si è trasformata, quindi una grande esperienza giapponese, torna spesso in Giappone perché i legami con il Giappone sono rimasti molto, molto aperti ed è forse il maggior conoscitore italiano della realtà non solo giapponese ma anche asiatica. Ecco, perché il Giappone? Come le è capitato di andare in Giappone, di essere scelto per andare in Giappone? Dunque, il Giappone devo dire mi interessava perché avevo visto all'Università Cattolica dei film che mi avevano molto impressionato, L'arpa birmana, L'uomo del Risho, Rashomon, I sette samurai, eccetera, quindi l'interesse c'era. Ma per andare nel pratico, nel 70 la Banca Commerciale Italiana, per vari motivi, aprì una sua attività, doveva avviare una banca in Giappone e mi prelevò dalla Citibank, avendo un'esperienza internazionale, si pensò che fossi la persona giusta per avviare un business molto difficile, molto complicato. La prima volta per una banca italiana in Giappone, nella storia. E quindi è andato in Giappone all'inizio degli anni 70 e poi si è appassionato di questa realtà. Sì, devo dire che l'inizio è stato scioccante. I primi 15 giorni ero senza famiglia, avevo anche due figli piccoli. Ho pensato anche di andarmene perché ho trovato che la differenza culturale e la lingua erano due ostacoli molto al di là di quello che mi ero immaginato, eppure venivo da una banca internazionale, ero stato negli Stati Uniti, conoscevo bene l'Europa. Quindi l'inizio complesso, difficile, e poi con il tempo e capendo la cultura mi accorsi che effettivamente la crescita del futuro, come sta avvenendo, era in Asia, il Giappone era il modello, il fulcro, e quindi fu naturale prolungare la mia permanenza. Erano anche gli anni in cui il Giappone cresceva a ritmi abbastanza forti, poi si è un po' fermata questa realtà giapponese. Beh, eravamo ancora sulla coda del miracolo economico giapponese, che d'altra parte assomigliava, anche se con un modello e con modalità molto più rilevanti, quello che avevamo visto in Italia negli anni 50, il miracolo italiano. Quindi molto stimolante perché sono i momenti in cui tutto è positivo e tutto cambia, quindi il massimo per le persone, per gli homo faber che hanno voglia di fare delle cose. Cosa ha trovato di diverso rispetto a quanto si aspettava la prima volta, le prime settimane in cui era in Giappone? Sicuramente aveva un'idea di questa realtà, forse c'era già stato come turista, però vivendoci, operando, facendo affari, che cosa l'ha colpita di più come diversità rispetto, diciamo, ai luoghi comuni, forse un'interpretazione corrente che si ha del Giappone? Ma la cultura, gli antipodi, le opportunità straordinarie perché il Giappone era già una grande economia, aveva superato la Germania già, quindi una cosa importante, bastavano poche briciole per avere dei grandi business visti in chiave italiana e allo stesso tempo un rompicapo per la cultura, una lingua impossibile e anche un modo di comportarsi complesso. Il fatto di vedere gente che sorride sempre, ma il sorriso vuol dire tante cose e tu non capisci cosa vuol dire. Quindi è una cultura molto, in certo senso molto chiusa. Qualcuno pensa che basti parlare inglese e in Giappone lo capiscono tutti. E questo fu il grande fraintendimento perché si pensava a Milano in Piazza della Scala che con il mio inglese, francese e l'italiano fossi già in paradiso in Giappone. In realtà il 99% dei giapponesi non lo parlava, e bastava uscire dal centro della città di Tokyo per avere segnaletica e tutto quanto in giapponese e quindi perdere il filo. Sicuramente da questo punto di vista un grosso gap di comprensione fra quello che noi percepivamo in Europa e quello che invece era la realtà. E così ha deciso di studiare il giapponese. Così ho deciso, devo dire che sono arrivato con l'idea precisa della lingua, perché avevo visto gli americani alla Citibank degli anni 60, dove lasciai come un alto dirigente, nonostante fossi molto giovane, che gli americani si erano subito dati da fare per imparare l'italiano. E tutti quelli che c'erano qui si erano bene integrati dal punto di vista della cultura e della lingua. E ritenevo che fosse indispensabile fare la stessa cosa. Se ci pensate, uno va a fare il direttore, ad aprire una banca, come era il mio mandato, e in realtà si trova a non poter parlare col 99% dei suoi colleghi. È una cosa veramente drammatica, perché tutte le volte che hai qualche cosa di confidenziale, comunque che vorresti dire a una persona, devi chiamare un interprete che ti traduce, è una cosa veramente frustrante. Quindi entrare nella cultura, capire la lingua diventa fondamentale per chi vuole avere rapporti culturali, ma soprattutto economici, con una realtà come quella del Giappone. A mio giudizio sì. Lei ha scritto un libro recentemente, Il visitatore, racconta di Alessandro Valignano, un grande maestro italiano in Asia, quindi un suo precursore in fondo. Chi era Alessandro Valignano? Devo dire che non oso accostare ovviamente le mie modeste esperienze a quelle di un grande del Rinascimento come Alessandro Valignano. Alessandro Valignano era un giovane gesuita, arrivò in Asia nei suoi 30 anni, nobile di Chieti, e per la sua intelligenza e preparazione i gesuiti, quindi il Vaticano e allo stesso tempo il re del Portogallo e della Spagna, lo nominarono visitatore intra e ultra gangem, vuol dire per tutta l'Asia in pratica, e i gesuiti avevano basi, presenze dove c'erano i portoghesi, quindi a Macao, nell'estremo oriente, in Giappone e a Goa, quindi tre punti principali, tre snodi che volevano significare India, Cina e Giappone, le tre grandi realtà di quel momento. Quindi lui arrivò come un ambasciatore plenipotenziario con lo scopo di vendere cultura, in sostanza, cercare di salvare anime, e ci riuscì in un modo straordinario. Ecco, lei racconta in questo libro che Valignano scrisse anche un manuale ad uso di coloro che andavano in Giappone per cercare appunto di avvicinare questa realtà, un manuale che è di profonda attualità perché dà alcune indicazioni su come comportarsi che vanno bene anche oggi, ne possiamo indicarne una? Corretto, Valignano scrisse nel 1582 a Nagasaki il manuale per i missionari in Giappone. È un trattato di antropologia fantastico, che dovrebbe essere il testo di qualsiasi business school nel mondo oggigiorno, dove Valignano cercava di attrarre l'attenzione dei missionari per poter compiere la loro missione in modo adeguato su due aspetti fondamentali, sull'inculturazione e l'adattamento. Inculturazione e adattamento, due elementi appunto fondamentali per avvicinare, per essere, per comprendere, per avere delle relazioni costruttive. Incontri. Con queste note di Akatombo riprendiamo il nostro incontro, buon pomeriggio ancora a quanti ci ascoltano, con Vittorio Volpi, milanese, è stato per tanti anni, per 30 anni in Giappone come fondatore della filiale giapponese della Banca Commerciale Italiana, conosce il giapponese oltre che il Giappone, conosce tutta la realtà asiatica, è certamente uno dei maggiori conoscitori di questa realtà anche da un profilo culturale oltre che dal profilo economico. E abbiamo concluso la prima parte parlando appunto del libro scritto da Vittorio Volpi, Il visitatore, la storia di Alessandro Valignano, un grande maestro italiano in Asia, un gesuita che era stato scelto per portare la missione in Giappone, che ha scritto un libro di consigli utili per i missionari, soprattutto anche per quanti volevano avere contatto con questa realtà. E da due direttive, l'inculturazione e l'adattamento, abbiamo concluso così la prima parte. Che cosa si intende per inculturazione e adattamento? Vittorio Volpi. Diciamo che Valignano scoprì una grande cosa che è abbastanza misteriosa a molti di noi anche oggigiorno, ecco perché personalmente lo considero un grande genio italiano per il quale ho un rispetto immenso e che vorrei gli italiani conoscessero, i miei compatrioti conoscessero di più. Capì che la parola cultura ha un plurale, che molti non capiscono. L'endocentrismo nasce con noi sostanzialmente, è quasi un software mentale che ci obbliga, ci costringe a comportarci in determinati modi senza renderci conto del perché lo facciamo, perché fa parte della nostra cultura, del nostro DNA. Ed è molto comune assumere un atteggiamento etnocentrico. La mia cultura è la cultura, le altre non contano niente. In realtà non è così. Valignano fu talmente grande che capì che paesi come la Cina e il Giappone avevano una grande cultura, certamente non inferiore a quella occidentale. E questo fu il suo grande miracolo, se vogliamo, nel capire una cosa fondamentale. Allora capì che se le culture sono diverse, come si convive con le culture? È un tema fondamentale nel XXI secolo, non l'ho detto io, l'ha detto il cardinale Martini, ma lo dicono anche le Nazioni Unite, che le tre grandi sfide del XX secolo, oltre all'ambiente, il gap Nord-Sud, il terzo grande problema di questo secolo è come far convivere le culture insieme. Valignano capì che bisognava trovare un metodo e quindi sviluppò il metodo dell'inculturazione, che non è la culturazione, cioè non è solo io conosco la tua cultura, ma come dice Gadamer, la conosco, entro nei tuoi schemi mentali per cercare orizzonti culturali congiunti, insieme, dove possiamo lavorare insieme. E poi l'adattamento che diventa fondamentale, ma ci sono anche tanti proverbi, anche giapponesi, che dicono a Roma devi fare come i romani, cioè bisogna adattarsi. Quindi, rispettarli e quindi anche capire, lavorare insieme, gettare ponti fra le culture e poi un certo adattamento. Ecco, per chi vuole appunto approfondire la figura di Alessandro Valignano, il libro è Il Visitatore di Vittorio Volpi, edito da Spirali. Allora, Vittorio Volpi, ma c'è molta differenza tra il Giappone e la Cina? Ma, diciamo, la base culturale è forte, è congiunta, nel senso che tutti e due i paesi sono profondamente permeati dal confucianesimo, che non è una religione ma è un codice etico, un codice morale di comportamento. Il confucianesimo entrò e penetrò drammaticamente nella società coreana e giapponese provenendo da una cultura ideogrammatica che è visiva e non auditiva e che ha determinate regole fondamentali, che è la società verticale, il rispetto per l'anzianità, i cinque anelli e tutte queste cose qui che fanno parte del mondo confuciano. Quindi una base comune c'è. Poi la Cina è un paese immenso continentale, il Giappone è un paese invece isolano, cioè un paese che ha vissuto per 3.000 anni da solo e che quindi ha caratteristiche molto diverse da quelle cinesi e soprattutto esasperatamente interpretate dai giapponesi, che si ritengono sempre unici e incomprensibili. Loro stessi ritengono di non essere comprensibili. Quando trovano uno straniero che capisce la loro cultura, si comporta secondo i canoni e comunica con loro in modo adeguato, questo ovviamente ha un vantaggio competitivo nel paese straordinario. Ecco, il Giappone però è una realtà adesso abbastanza ferma, sono anni che non cresce a livello economico, che è fermo anche a livello demografico, che non sembra avere grandi possibilità di ulteriore crescita. La Cina invece ha uno sviluppo tumultuoso, molto esuberante. Dove arriverà la Cina? Dunque, il divario è enorme però fra Cina e Giappone, non dobbiamo confonderli. Sebbene la Cina abbia superato come prodotto interno lordo il Giappone, in realtà a pari livello la pizza di 5.000 miliardi di dollari, i giapponesi la dividono in 127 milioni, la Cina in 1 miliardo e 300, quindi il rapporto è 1 a 10. Stiamo parlando di due realtà molto diverse. È ovvio che il Giappone è un paese ormai post-industriale, paese maturo, è un paese che ha tutti i problemi che abbiamo noi e li ha anticipati, quindi società che invecchia molto velocemente, il tabù dell'immigrazione e quindi una decrescita della popolazione attiva, un paese che fra 20 anni avrà due che lavorano e uno che sta in pensione e quindi ha problemi di un certo tipo. La Cina è invece un paese in via di sviluppo che ha delle sacche di sottosviluppo enormi, ci sono ancora centinaia di milioni di persone che vivono a livello di sussistenza. La media del pollo di Trilussa non quaglia, nel senso che la disparità di reddito della Cina è enorme ed è uno dei problemi latenti del paese, che ovviamente decideranno se il Partito Comunista è degno di continuare in futuro. Il Partito Comunista, che in realtà è un partito autoritario di dogmatismo politico, non ha più niente. Se sarà ancora il partito guida nei prossimi anni dipenderà soltanto da come saprà indirizzare e risolvere i problemi di disparità di livello di vita della Cina. Ecco, ma sarà possibile, forse non in questo 2012, ma negli anni prossimi, arrivare a un diverso modello anche politico, sociale della Cina, in fondo, oppure potrà coesistere ancora un modello autoritario sul fronte politico e un'economia che è in pratica un'economia di mercato sul fronte appunto della produzione? Come diceva Deng Xiaoping, quando si ha la pancia piena è facile discutere di democrazia. La Cina non è ancora a questo livello, ha ancora problemi enormi da risolvere, ma certamente è la storia di tutti i paesi di questo mondo, è la storia del nostro pianeta, che quando arriva il benessere arrivano anche altre necessità, si incomincia a pensare anche ad altre cose, si comincia a pensare all'anima, alla democrazia, alla libertà, quindi è inevitabile che certamente qualcosa in Cina possa succedere nei prossimi anni. Ecco, la Cina è vista anche come una grande possibilità sia sul fronte del mercato, soprattutto per le classi più alte, quindi per i prodotti di lusso, di cui l'Italia ha una delle produzioni proprio di forza, ma è vista anche come un'opportunità per andare a produrre in Cina. Lei come vede questa possibilità di delocalizzare in Cina produzioni che sono in Europa? Il trend, le indicazioni sono molto precise, la Cina è ancora un paese molto conveniente per produrre. È anche vero comunque che nelle zone più industrializzate il costo della manodopera sta crescendo rapidamente e quindi questo vantaggio competitivo non è destinato a durare in eterno e questo dovrebbe essere ben chiaro nella testa degli imprenditori che vanno solo per sfruttare una differenza. E come scrive Michael Porter di recente, fare molta attenzione perché questo porta anche dei problemi a casa propria, in quanto si crea disoccupazione giovanile, si crea disoccupazione in genere, si perdono alcune caratteristiche di imprenditorialità che sono invece la forza di un paese. Se c'è una delle caratteristiche principali di questo periodo storico che parte da Friedman negli anni 70 ad oggi, è quello di avere deindustrializzato irrazionalmente e quindi credo che sia giunto il momento di ripensare a quello che abbiamo fatto finora. Troppa finanza, poca industria è stata la nostra disgrazia e il trend va rovesciato. Beh, indubbiamente le crisi degli ultimi anni sono state proprio contrassegnate dalla finanza, dai debiti, dall'incapacità di gestire in fondo sia la finanza pubblica sia in parte anche la finanza privata, in cui si è cercato di fare i soldi con i soldi e non con la produzione. In questo senso forse i cinesi possono dare un esempio di realismo. Certamente i cinesi stanno vincendo utilizzando un modello che i giapponesi hanno perfezionato, è quello di stato sviluppista che è stato ben descritto da Chalmers Johnson e che postula una forte interazione e collaborazione fra Stato e mercato. Quindi la cultura confuciana, che è contraria ai contrasti, essere o non essere, non è sicuramente nato sotto il cielo di Confucio, perché una cosa può essere e può non essere, quindi molta tolleranza e compatibilità, il che vuol dire una maggiore capacità di lavorare fra Stato e mercato, è sicuramente una carta vincente per la Cina, per la Corea, per il Giappone, continuerà ad esserlo. E speriamo che anche da noi questo concetto possa entrare un po' di più nella nostra cultura, che invece non sembra essere stata generosa per favorire questa collaborazione. Sì, la nostra è una cultura molto bipolare, o a destra, a sinistra, essere o non essere. Ecco, in questo senso la Cina è importante, può anche essere un esempio di cultura più aperta, di cultura più aperta. Ecco, può sembrare strano in un'economia, in una società che appare abbastanza chiusa, autoritaria, che può dare un messaggio di questo tipo. Come possiamo concludere dando un giudizio complessivo al futuro dell'Asia, al futuro dei rapporti tra l'Europa e l'Asia? La mia conclusione è che questa crisi non è una crisi ciclica, ma è, diciamo, l'estrinsecazione di un processo pendolare che vede il trasferimento dell'economia da Occidente verso Oriente. Non è una cosa nuova. La Cina nel Settecento è stata l'economia più grande del mondo e lo sarà ancora per i numeri che ha. E quindi in questo processo di trasferimento dell'economia da Occidente a Oriente noi saremo sicuramente meno competitivi e più poveri, e quindi per le nostre aziende sicuramente il messaggio è di andare a vedere cosa si può fare in questi mercati, ricordando quello che dicevano i nostri vecchi: chi vuole vada, chi non vuole mandi. E quindi appunto avere però l'ottimismo di guardare a queste realtà e andare a cercare un confronto aperto e cercare appunto di sfruttare anche le occasioni e le opportunità. Grazie a Vittorio Volpi di essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie a voi, grazie a lei. Così come ringrazio Filippo Aureggi in regia, Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, potrà essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica e appuntamento a domenica prossima.